Gli oneri di urbanizzazione sono gli oneri che per legge i comuni incassano quando vengono realizzate delle opere appunto di urbanizzazione, quindi delle espansioni residenziali, industriali, vengono fatti anche degli interventi sull'esistente che poi sono calcolati in misura ridotta. Comunque diciamo che l'idea è della norma è quando si fanno interventi che hanno un impatto sul territorio, il comune incassa un contributo per far fronte a quelli che sono gli incrementi dei carichi urbanistici, ovvero quelli che sono gli impatti sul territorio. La normativa cosa diceva? Che i comuni potevano utilizzare fino al 50% di questi oneri per coprire la spesa corrente. La spesa corrente non è altro che quella che i comuni sostengono per il proprio funzionamento, quindi dalle bollette ai contratti, alle utenze, a anche servizi, anche, non lo so, le fotocopie, la gestione dei software, cioè tutta la spesa per il funzionamento dell'ente. Poi sono un paio di anni che questa percentuale di applicazione degli oneri di urbanizzazione alla spesa corrente è passata dal 50% al 100%, però finalizzandola. Cosa vuol dire? Che nel 2017 e nel 2018 i comuni possono applicare il 100% degli oneri di urbanizzazione alle spese correnti, però di manutenzione ordinaria del verde, delle strade, del patrimonio comunale e spese per progettazione delle opere pubbliche, quindi diciamo che non è più spesa corrente a prescindere, ma è spesa corrente legata al settore tecnico, quindi quello che gestisce le trasformazioni del territorio. Sì, forse questo è un correttivo proprio perché si era generata una sorta di stortura, no? Magari anche con la crisi economica, col taglio dei trasferimenti, i comuni hanno ricorso spesso all'utilizzo degli oneri di urbanizzazione per la spesa corrente. Assolutamente sì, nel senso che diciamo che negli anni c'è stato, soprattutto in certi comuni, una sorta di inversione dei contributi, nel senso che comuni da una situazione in cui ricevevano forti contributi dallo Stato si trovano ovviamente ad avere questi contributi ridotti, contributi su tutti che riguardano tutti i settori, quindi anche settori in qualche maniera delicati, quindi l'assistenza all'handicap o servizi sociali o servizi diciamo di primaria importanza. Si trovano oggi invece i comuni a in qualche maniera contribuire in maniera attiva al bilancio dello Stato. In che misura? Nella misura dell'IMU dei fabbricati produttivi, perché il 7,6 per mille dell'IMU dei fabbricati produttivi i comuni lo versano allo Stato. Poi ci sono ovviamente dei fondi di bilanciamento, comunque ci sono dei contributi da parte dello Stato, però negli ultimi anni diciamo il contributo statale si è ridotto talmente tanto per cui alcuni comuni, molti comuni si sono trovati a applicare gli oneri in parte corrente. Però questo genera un meccanismo, come dire, un cane che si morde la coda, no? Se io autorizzo nuove urbanizzazioni, arrivano nuovi cittadini e hanno bisogno di nuovi servizi. Assolutamente, sì. Diciamo che appunto adesso dovrebbe entrare in vigore questa nuova legge urbanistica che ridurrà le possibilità di consumo di suolo andando a limitare quindi le espansioni. Il tema diciamo quindi di consumo di suolo è in qualche maniera affrontato in maniera diciamo attiva. La cosa che i comuni dovranno capire come affrontare è il tema delle risorse, cioè se non c'è più questa possibilità di utilizzo di diciamo oneri per la copertura di spese, bisogna che i comuni capiscano come appunto bilanciarlo. Quindi la nuova legge regionale sull'urbanistica interviene anche su questo, cioè sull'utilizzo degli oneri per la spesa corrente? Allora no, l'utilizzo degli oneri per la spesa corrente è una disposizione da normativa nazionale, solitamente sono le leggi di bilancio che vanno a definire come si possono usare, perché poi alla fine di fatto è una cosa uguale in tutto il territorio nazionale. Certo. Comunque la regione di suo ridurrà le capacità di edificatorie moltissimo. Fondamentalmente la logica della regione è quella di dire che se i comuni non avranno utilizzato le capacità edificatorie attuali, se non realizzano l'edificabile che era previsto dagli strumenti urbanistici precedenti entro 3 anni, perdono questa capacità edificatoria. E ti chiedo proprio da amministratrice, non è che i comuni, come dire, non abbiano aspettato altro che cementificare il territorio, ma a volte volte sono stati costretti per esigenze di bilancio. Un po' quello, un po' anche il fatto che molti dei nostri comuni si trovano ad avere vigenti degli strumenti urbanistici che hanno definito delle capacità edificatorie in momenti pre-crisi. Cioè, questo è anche uno dei motivi per cui è nata la nuova legge urbanistica, nel senso che ci si è resi conto che gli strumenti urbanistici vigenti, che sono il PSC, il RU, il POC, insomma, sono degli strumenti urbanistici che hanno una durata nel tempo troppo lunga per essere coerenti con un quadro economico nazionale che cambia fortemente, nel senso che sono, come dicevo, sono strumenti urbanistici in cui le capacità edificatorie sono state stimate pre-crisi, in cui erano momenti in cui si pensava che si potesse avere un'espansione molto diversa da quelli che poi ci si è resi conto di poter avere, e quindi di fatto hanno, diciamo, consentito troppo rispetto a quello che obiettivamente aveva anche senso realizzare.